io giornali no, non li leggo. Sono uno dei pochi e penso leggere il televideo ancora, quindi. E spesso la pagina 250 perché mi interessa ancora della serie B. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Pierluigi Pardo sta arrivando, siamo all'Expo Cibus Italia, veniteci a trovare, se volete intervenite anche in diretta a questi microfoni, se no chiamate 800 24 0024, è il numero verde, per parlare dell'Italia del calcio che batte 1-0 la Bulgaria con la solita partita di tanta sofferenza, per parlare dell'Italia del basket che batte l'Islanda allo stesso modo, cioè con un sacco di sofferenza, 7-1, 6-4, seconda partita dell'europeo, per parlare del Gran Premio di Monza che come al solito il tamarro più veloce del mondo, Lewis Hamilton, vince, per parlare della Serie B che è partita ieri tra divertimento, un sacco di gol, vittorie squillanti come sentiremo tra poco. Intanto però parliamo di Balotelli che prende l'ennesima multa, gli tirano la patente. Ce l'avremmo bisogno in nazionale, secondo me, più che al volante di una Lamborghini a 100 e oltre all'ora. Quando il limite era 50 e poi lui dice ma non me ne ero accorto che andavo così veloce. Bene, questo è il nuovo vecchio Balotelli. Partiamo però dalla nazionale, con Conte che è contento anche perché la Croazia si è inchiodata, forse avevamo un'avversaria, adesso non ce l'abbiamo nemmeno più sulla strada dell'europeo, però Conte è contento perché i 6 punti sono stati in un modo o nell'altro centrati, sentiamo. Intanto siamo riusciti a centrare i 6 punti in 2 partite, certo che, ripeto, per le situazioni e le occasioni che si creano, dispiace che il risultato rimane in bilico, perché può succedere un rimpallo e metti una partita in bilico quando penso che sia stata dominata e che mi davamo qualche gol in più, però c'è stato grande impegno, grande anche impegno fisico e niente, sono contento. Questo era Antonio Conte, quello che sentirete invece adesso in diretta, 800 24 0024, se volete chiamare, è Serse Cosmi, allenatore del Trapani che ieri ha vinto 3-0 contro la Ternana nell'Overture della Serie B. Buongiorno mister, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno. Come stai? 3-0 a Terni? 3-0 contro la Ternana, a Trapani certo, ma 3-0 contro la Ternana che insomma è roba di casa tua, però avete cominciato benissimo. Sì, ma ieri c'era poco tempo per poter pensare alla distanza dell'avversario da casa mia, invece ce n'era molta di più nel considerare la prima partita di campionato che era testa sempre grande curiosità, anche qualche timore. Invece credo che abbiamo fugato per questa prima giornata ovviamente qualche timore, la squadra si sta esprimendo in linea per come si è espressa anche durante il precampionato, questo è di buon auspicio per una stagione che sì è cominciata ieri ma proprio è più che agli albori perché è una maratona infinita. Serse, sento che la voce è quella del lunedì, cioè che va e viene, sì. Hai urlato anche ieri. Sì, soprattutto dopo il 3-0 che la squadra ha pensato che la partita fosse finita e molto probabilmente il risultato diceva questo, però siamo riusciti a prendere 4 cartellini vincendo 3-0, questo è da un lato è positivo perché mi fa capire che bisogna ancora lavorare sull'aspetto emotivo insomma, della squadra, e dall'altro insomma, mi fa capire che sono assolutamente situazioni evitabili perché poi il cartellino di ieri non ha significato, ma 2 mesi potrebbe avere un significato, certo, troppo penalizzato. Certo. Senti mister, ieri abbiamo avuto ospite Abodi, il commissioner della Serie B. Secondo me la Serie B è un campionato estremamente interessante proprio perché sta trovando una sua diversità nel calcio italiano. Sì, la penso esattamente così anch'io. Insomma, voglio dire, sai, è un campionato che se tu sei in A lo vedi sempre come un qualcosa che è troppo distante, senti spesso dire allenatori di Serie A, giocatori di Serie A o viceversa, Serie A di Serie B. Poi invece scopri che ci sono e dei giocatori e degli allenatori, ma c'è un contesto assolutamente diverso, ma positivo. Ho la sensazione che sia un qualcosa che sta crescendo, che intorno a quelle che sono le proposte di Abodi poi è qualcosa di vero, non di illusorio, per cui anche la rabbia del presidente di fronte a quello che è successo a Catania era vera, perché sembrava quasi andare a toccare un qualcosa che sta crescendo, e credo che la Serie A oggi guarda sicuramente la B, non dico con distacco, però con grande supponenza. Bravo. Di quello che noi pensiamo, vedrete che per loro la B sarà un valore aggiunto. Oggi ci mandano quei giocatori e sperano che qualche giocatore possa dimostrare di essere da Serie A. Tra un po' non sarà più così. Magari Cersti, qualche attimo... che la pensa così si troverà a fare la B. Allora la penserà completamente. Hai ragione. Ti chiedo un attimo di pazienza. Mentre parlo sta arrivando, abbiamo il traffico, poi facciamo altre due chiacchiere di calcio con Sers e Cosmi. Strade. La nota stonata della serata, l'espulsione di De Rossi. Come giudica il gesto? Non lo deve fare. Tutti convocati. Tutti convocati, anche Pardo che stiamo aspettando qui a Cibus Italia Expo, dove saremo per tutta la settimana. In linea con noi Sers e Cosmi, allenatore del Trapani, che ieri ha schiantato la Ternana e stavamo parlando del valore aggiunto della Serie B. Sers? Sì, ecco. Ci sei? Senti, sì, ma qual è, qual è il valore aggiunto di Antonio Conte alla nazionale italiana? Valore aggiunto, io credo che lui alleni la nazionale italiana come nella stessa maniera, ma non solo in panchina, diciamo nel momento della partita, come allena una squadra di club. Credo che difficilmente si vede questo tipo di atteggiamento, quindi è una novità per noi. Per noi italiani siamo abituati ad allenatori ovviamente che gestiscono la panchina della nazionale e una maniera di comportarsi diversa. Ma ti sembra diversa questa nazionale rispetto a quella che abbiamo visto per tutta la vita? A me non sembra così diversa. A me tanto diversa perché sì. Va bene, è chiaro, è inutile star qui a discutere sempre sulle stesse cose, o almeno quelle che si discutono da un po' di anni a questa parte. Però una nazionale dove l'allenatore fa fatica a mettere in piedi un gruppo e soprattutto con delle individualità spiccate di livello internazionale. Adesso, se togliamo Buffon, voglio dire, non me ne viene in mente una. De Rossi forse, voglio dire, però stiamo parlando di giocatori che sono, non voglio dire al termine della propria carriera, però giù di lì, insomma, voglio dire, poi non vedo giocatori in grado di avere dentro una caratura internazionale. Ecco, forse giocatore che può rappresentare in questo momento, che dà questa idea, Verratti, a mio giudizio. Tant'è vero che in Italia lo contestano, lo giudicano un giocatore della nazionale. Certo, è la dimostrazione che è veramente un giocatore di carattere internazionale. Sì, ma secondo te non è un falso storico dire che Verratti è il dopo Pirlo? Perché ancora non è Pirlo. Perché Pirlo gioca ancora, anche se molti cominciano a storcere il naso, dicono che è a fine carriera, eccetera. A me sembrano due giocatori profondamente diversi. Ma sì, sono profondamente diversi. L'origine è identica, tutte e due nascono trequartisti. E tutte e due portano la fantasia che avevano da trequartisti in una zona del campo che solitamente non dà molto spazio alla fantasia, perché lì se perdi una palla, come a volte, raramente capita a questi due giocatori, sono problemi. Come io l'ho vissuta questa situazione con Liverani, un giocatore che faceva il trequartista, che poi in un anno da mediano è andato in nazionale, quindi sono giocatori che interpretano il ruolo secondo le loro caratteristiche, sono diversi, rimane unica questa, hanno fantasia, hanno i tempi, hanno, non hanno paura, hanno personalità, sono in grado di dribblare davanti all'aria, che è una delle cose più rischiose, ma anche quelle che una volta che riescono ti aprono tutto, o tanto, voglio dire, soprattutto se poi successivamente hai la capacità di poter innescare il gioco in una certa maniera. Quindi è il dopo Pirlo, perché cronologicamente non c'è un giocatore che può assomigliare a Pirlo, insomma, credo che dovremmo aspettare purtroppo per noi tanto tempo, però Verratti di sicuro è l'alternativa non a Pirlo, è quello che 92, voglio dire, a 23 anni ha tanto davanti a sé, e se è leader riconosciuto nel Paris Saint Germain non vedo perché non lo possa essere in una nazionale dove ci sono giocatori che hanno difficoltà a giocare nei club in Italia. Certo. Serse, l'ultima domanda te la faccio fare da Paolo Condò, che è collegato con noi. Ciao Paolo. Ciao ragazzi, ciao Serse, come stai? Ciao Paolo, sono in spiaggia. Sta benissimo. Allora stai magnificamente. Ma sai, le domande si fanno in genere quando si è di opinioni diverse, ma Serse stava dicendo di Verratti esattamente quello che dico io da parecchio tempo. E che, ragazzi, insomma, ragazzi, quanto vale una coppia d'attacco Pelé El Shaarawy o Pelé Eder, quanto vale in valore assoluto? Lo chiedo a tutti e due. Ma insomma, nel calcio europeo, quanto diciamo che ci sono molte coppie d'attacco più forti, quelle che tu mi hai proposto, però sai, questo è quello che ci è dato. Se tu escludi, sì, soprattutto diciamo, se Balotelli ritira la patente, se tu escludi, tutte ste robe qui, no? Se tu escludi il solito discorso Balotelli, sul quale ci siamo dilungati moltissime volte, io aggiungo anche destro, aggiungo Giuseppe Rossi, che chissà se tornerà ad essere un giocatore. Sì, insomma, sono due discorsi diversi, uno disciplinare e l'altro fisico, però chiaramente esclusi questi discorsi qui, e tu ti devi affidare a chi c'è, e in più io dico, fin da questo europeo, a Berardi, che purtroppo non è potuto venire via infortunio, ma sono per certo che Conte altrimenti l'avrebbe chiamato. Serse, Dico che nel calcio ci hanno insegnato, e forse è giusto, non guardarsi indietro, perché è chiaro, se uno ha la possibilità o ha voglia di guardarsi indietro è imbarazzante il paragone, voglio dire, con tutti gli attaccanti che hanno fatto parte della nostra nazionale, ma ovviamente questo non è un'accusa di giocatori che comunque nei loro club stanno facendo cose interessanti. Ma lei in Italia ha avuto delle difficoltà enormi, voglio dire, fino a quando non è andato prima in Olanda e poi in Inghilterra, è riuscito ad affermarsi, quindi non era molto probabilmente colpa sua, però è vero, insomma, abbiamo parlato di Verratti, lo giudico in assoluto un giocatore internazionale, se non l'unico, uno dei pochi della nostra Italia. L'altro è per potenzialità Balotelli, è inutile che stiamo a discutere sulle macchine, bravo, sulle giudico le qualità, e è ovvio che poi queste qualità devono essere messe in campo, e su quello faccio anche un mestiere dove spesso sono stato tradito da giocatori che avevano tante qualità e non avevano quella assoluta, insomma, l'intelligenza. Però detto questo, io credo che a volte recuperare dei giocatori diventa quasi una cosa noiosa, ma mai come in questo caso recuperare i Balotelli diventa una priorità, almeno per quello che riguarda. Poi, buongiorno Serse Cosmi, guarda che è arrivato Pardo accaldato, lo sto ascoltando da un paio di minuti. No, ma sono d'accordo. È la dittatura. Lo so, è la dittatura del talento, però questa qua, non ho la mia, perché è quella di Balotelli, che comunque alla fine non è che puoi valutare su criteri strettamente etici, morali, a patto di sapere che cos'è l'etica e cos'è la morale, devi valutare soltanto da quel punto di vista, e mi sembra che mai come questa nazionale sia necessariamente bisognosa di aggiungere qualcosa, quindi io credo che Balotelli, ci piaccia o no, diventerà un tema sull'agenda Balotelli, del CT, no? Destro, Giuseppe Rossi, Osvaldo, questi sono i quattro più forti attaccanti italiani secondo me. Osvaldo, vabbè, Osvaldo l'abbiamo perso, non so neanche dove gioca, non mi ricordo più. Destro mister? Destro sì. Destro Paolo Condò, di allenarlo solo in una preparazione a Siena, un ragazzo che prometteva di più, secondo me lui deve trovare trovare un equilibrio psicologico. A volte, almeno sembra, vedendo le partite, che soffra la partita, soffra psicologicamente la partita, ma non tanto la partita in quanto tale, soffra i momenti in cui viene messo in discussione, i momenti in cui... E lì purtroppo è un'altra qualità che alcuni giocatori hanno superato felicemente, anzi, l'hanno fatto diventare una virtù questo tipo di qualità, altri che invece poi ha compromesso o parzialmente o in tutta una carriera. Quindi mi auguro per Mattia che sia un momento... Ma sembra più un problema caratteriale, no? Che un problema a tecnico. Me sembra proprio di sì, perché poi come qualità... soprattutto realizzative è in assoluto uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Esatto, grazie Serse. Ciao Serse. Ciao, grazie, arrivederci a tutti. Voglio sentire Paolo Condò cosa dice in proposito. No, intanto volevo autodenunciarmi ieri sera. Dai. tornando a casa, dove c'è un radar a 90 all'ora, sono passato credo attorno a 112. E quindi se era acceso potrebbero anche ritirarmi la patente. Autodenuncio su questo per sostenere la tesi che Balotelli insomma, gli hanno ritirato la patente. E chi se ne frega, sì, chi se ne frega. Sono d'accordo. Frega se gli hanno ritirato sai, l'altro giorno venerdì Paolo con Pierluigi ha innescato tutto questo discorso. Fallo di mano di Pelle sul gol contro Malta, eccetera, eccetera, e poi è esploso un casino come al solito. Perché non lo diciamo dopo la partita? In Italia siamo tutti bravi a fare i moralisti. Chi non ha mai parcheggiato in divieto di sosta? Chi? Se sì, c'è qualcuno non è che se la macchina c'ha il camouflage, allora perfetto. Allora dopo chiamiamo il vigile. Se non abbiamo preso, abbiamo parcheggiato il divieto di sosta, non abbiamo preso la multa, andiamo a chiamare il vigile. Certo. Chi non l'ha mai fatto? Lo scandalo è se tu sei un calciatore famoso. Ma Pierre ha ragione. E fai qualche cosa che non va bene, allora siccome sei un calciatore famoso, la cosa ti viene perdonata. Siccome a Balotelli mi pare che non succeda. No, ma delle volte anche il contrario, sembra uno debba dare il buon esempio. Detto questo, no, ma hai ragione Paolo. No, io dicevo, non facevo un discorso moralista, semplicemente dico che se noi siamo un mese a maledire l'arbitro di Irlanda-Francia, il fallo di mano di Henry, poi se c'è il fallo di mano nostro dobbiamo avere la stessa onestà intellettuale. Certo. Detto questo, io non sono lì, poi c'è chi mi ha scavalcato a sinistra, a destra, decidete voi la direzione, dicendo che allora il giocatore doveva dire che l'aveva toccata con la mano. Io questa cosa non la penso per quello che diceva Carlo prima. Anch'io la penso, è giusto. Però questo giusto vale dire. Anche per Henry, scusate, che è quello che ci sta più sulle palle, si può dire sulle palle, no. Non lui, ma quell'episodio lì, chiaramente ti favamo tutti per l'Irlanda dei trapattoni, quella roba lì è dolorosissima, però voglio dire, poi non me la sento di maledire Henry perché ha fatto il vago, certo, perché altrimenti certo. Devo prendermela pure con Pellè, ecco, tutto qua. No, indubbiamente, è giusto, la cosa importante da fare, per quanto riguarda noi, e che se lui segna di mano, diciamo chiaramente ha segnato di mano, perché altri fanno anche i pesci in barile. Ma deve dirlo anche lui, però Paolo, deve dirlo anche lui, qual è il problema? Sì, deve dirlo anche lui, sai, lì è questo è quello che ha detto Pierluigi, io dico in campo è chiaro che non in campo perché sarebbe come dopo l'esempio della multa che faceva prima, ma siccome questo non è un lavoro privato, è un lavoro pubblico nel quale ci sono 20 telecamere, secondo me non c'è niente di male in assoluto, e anzi fai mediaticamente una bella figura, tutto qua. E come tante volte ti lamenti perché hai subito un fallo da rigore e l'arbitro non ti ha fischiato il rigore, ecco, puoi anche non lamentarti ovviamente, ma segnalare che hai segnato un gol irregolare, che ti sei non diventi anche più credibile Paolo sbattuta, quando poi ti lamenterai, tanto ti lamenterai, succederà sicuro. Poi c'è questa cosa omertosa che mi ricorda i ministri al processo di Catanzaro, che dicono non ricordo, ma figure, ma cosa vuoi, non mi sono accorto, ma dai, ho comprato la casa mia insaputa, dai, non mi sono veramente accorto. Sai, non ho visto, eravamo sì, borse, adesso arriviamo. Io voglio chiedere un'ultima cosa a Paolo Condò, che stamattina era che ha visto Allegri, che ha presentato questa app su come diventare allenatori. Io sono tecnologico zero, Pardo invece. No, penso che possa essere una cosa molto carina, molto divertente, da quel che ho capito, per gli allenatori delle squadre giovanili. Le squadre giovanili che hanno dei metodi di lavoro che sono stati sperimentati ai più alti livelli, ma che possono essere utili anche per allenare i ragazzini. questo senso è, credo che avrà anche successo. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao Paolino, ciao, ciao. Grazie ciao, mille. Ciao. 800 24 00 24. Siamo a Expo Cibus Italia. Se volete ci venite a trovare qua tutta la settimana. Tu hai mangiato, vero? No, niente. Tu, vabbè, tu non mangi di tuo. Tu, io invece non ho mangiato, avrei mangiato, ero bloccato in tangenziale, quindi. Sentiamo dopo la borsa. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Tutti convocati da Expo Cibus Italia, Pierluigi Pardo. Eccolo! Mio fratello di microfono è qui con me. Giorgio De Luca dalla redazione mi scrive: due ascoltatori molto veloci, poi lancia la copertina basket più Bucci. Perfetto, vai, partiamo. Chi no, sono? Prima Gennaro Gianni da Siracusa, che è lì da un secolo. Allora, Gianni. Buonasera. Gianni? Sì, buonasera. Sono qua. Buonasera. Ortigia? Ortigia? No, Fontana su io Siracusa sono Gianni, per Milano, per altre cose. Sì, dimmi. Su Siracusa io sono preparatissimo, Vabbè, Fontana delle Papere. Ma non è di quello che voglio parlare. Oggi piove finalmente. Allora, ieri sera quando è entrato Eder ho spento la TV, perché io come gli altri 20.000 che erano lì allo stadio aspettavamo che finalmente facesse entrare Vasquez. Ora io non capisco che senso aveva quella sostituzione. Eder aveva giocato contro Malta, nemmeno aveva brillato. Secondo me è stata una palese mancanza di rispetto verso il pubblico, che veramente molti erano lì solamente per vedere Vasquez con la maglia della nazionale. Poi se non hai fiducia non te lo porti nemmeno in panchina, se non hai, se ritieni che non è in condizione di poterti fare 10 minuti contro la Bulgaria. A parte che ritengo che sia un giocatore di classe sopraffina, ma forse Conte... No, però posso dire, io non sono molto d'accordo, nel senso che sono d'accordo su Vasquez, assolutamente ottimo giocatore, non a caso oggetto di mercato, e Palermo se lo tiene ben stretto e fa benissimo. Io credo che in una partita che non è un'amichevole, ma è una partita importante per la qualificazione, con un risultato ancora in bilico, perché l'1-0 era un risultato in bilico, c'è stata la parata di Buffon a due dalla fine, l'allenatore abbia non solo il diritto ma addirittura il dovere di fare le scelte esattamente come vuole. È ovvio che penso che avrebbe, che non sia insensibile a queste cose, cioè penso che se in quel momento della partita ci fosse stata la possibilità l'avrebbe fatto giocare. Penso che se fossimo stati 3-0, tanto per capirci, l'avrebbe fatto giocare. Ha fatto quella scelta perché in quel momento lì ha pensato semplicemente alla partita. Poi si può discutere sul fatto che sia meglio uno o piuttosto che l'altro, ma queste sono le scelte, insomma, lui li vede continuamente in allenamento. Insomma, non mi sembra francamente. No, ma poi sei in nazionale, c'è questo trend per cui tu giochi a Genova, convochi giocatori che giocano in amichevole, convochi giocatori che giocano lì. Ieri era una partita importante, certo. Che abbiamo portato a casa senza brillare, ma giocando meglio sicuramente, ci voleva poco. Che quella contro Malta, e secondo me ha fatto bene a non farlo entrare, cioè se in quel momento lì gli serviva Eder ha fatto bene a far entrare Eder. Mi dispiace, capisco poi la frustrazione, la delusione del pubblico palermitano. Gennaro Napoli, poi seguo Giorgio De Luca, due ascoltatori molto veloci, poi lancio la copertina basket più Alberto Bucci. Sì. Però prima Gennaro, 14:45 Bucci. Prego. Lo lasciamo lì un'ora. Gennaro, buongiorno. Buongiorno, saluti a tutti. Volevo fare innanzitutto un saluto al mondo della pallanuoto, che i miei figli la praticano. Poi volevo dire una cosa. Bellissimo. Noi sulla nazionale penso che si faccia troppe parole, a volte anche a colpa dei giornalisti, e non solo a volte, ti spiego. Seghe mentali, colpa dei giornalisti, sì, già sentito. Ma verrà, devi avere le chiavi della nazionale, non da adesso, da pareggio. Ogni volta che viene convocato sembra che deve fare l'esame. A pari età Pirlo non era come Verratti. Questo è vero. Verratti molto questo più è forte. Questo è vero. Però poi Pirlo è cresciuto bene, Per l'amor di Dio, un campionissimo. Però dico, Balotelli, ma dai, ma che si fa questo ragazzo? Ma io, le muffe. Non è che ne abbiamo tanti, però, Gennaro, di giocatori di talento, lì davanti. Io dico Balotelli, dico Destro, Osvaldo non so più dove gioca, l'abbiamo detto prima, però questi sono Giuseppe Rossi, se recupererà certamente. Siamo sempre appesi. Però siamo lì. Siamo sempre appesi ai colpi di genio e alle incognite. Su questo non ci sono dubbi. No, ma io sono d'accordo su Balotelli, nel senso che credo che alla fine, come diceva il mister prima, è un giocatore che chiaramente per quello che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo non meriterebbe nemmeno l'Under 21, se potesse ancora giocare per limiti di età. Però è un giocatore che ha potenzialmente dei colpi che in questa situazione di penuria di talento offensivo potrebbero tornarci utili. Quindi è chiaro che se noi avessimo avuto in questo momento la generazione di Del Piero, di Totti, di Baggio, di Zola, di Mancini, oggi Balotelli sarebbe fuori dai giochi. Siccome invece abbiamo questi altri che sono ragazzi di buon livello ma non eccezionale, Balotelli, se fa una grande annata, secondo me le sue chance le recupera sicuramente. Però intanto abbiamo una generazione di Gallinari, di Bargnani, di Berinelli, di Datome. Io lì però ho una teoria, vorrei sentire subito il coach. Perfetto, sentiamo un lancio veloce e poi Alberto Bucci. Torna Berinelli, non abbiamo ancora visto Bargnani. Nel secondo tempo Hackett si inventa un grandissimo canestro. Grandissimo canestro. È stata una partita equilibrata, lo sapevamo, loro hanno giocato bene, hanno giocato benissimo con la Germania, quindi sapevamo non sarebbe stato facile, è una squadra molto atipica, tantissimi tiri da tre, giocano sempre piccoli, quindi insomma abbiamo vinto, sono contenti. Cambiano su ogni pick and roll, quindi insomma è difficile attaccarli, non sono situazioni che incontro tutte le sere. Adesso dobbiamo resettare domani, abbiamo le tre partite più complicate e ce la giochiamo tutta là. Io sono sempre a disposizione dell'allenatore, gioco per la squadra, quindi qualsiasi cosa per provare a vincere. Grandissimo canestro. Era importante vincere dopo la partita di ieri, perché fondamentalmente non abbiamo giocato una buona partita ieri sera. Oggi c'era un po' di tensione perché poteva essere un disastro perdere questa partita. Loro non sono una squadra facile perché sono tutti piccoli, cambiano su tutto, giocano in modo molto rapido, avevano messo in difficoltà la Germania e noi siamo riusciti a tener botta fino alla fine. Grandissimo canestro. E così è andata ieri, sofferenza della Madonna, siamo riusciti a battere l'Islanda. Alberto Bucci, buongiorno. Buongiorno. Professore. Buongiorno, ti lascio la prima domanda. Lascio la prima domanda a Pierluigi Pardo, che vuole chiederti una cosa. Che è un mezzo profano. No, sono un mezzo profano, ma devo dirti la verità: ieri ho avuto la sensazione, però sicuramente sbagliata, che ci fosse forse troppo talento in questa squadra. No? Nel senso che è una squadra NBA. È una squadra NBA con quattro giocatori, se non sbaglio, dell'NBA, con tanto talento, credo, rispetto alla media degli ultimi anni. Ma non è che tutto questo talento offensivo, soprattutto, poi rischia di complicare le rotazioni di Pianigiani e forse anche una certa attitudine difensiva? C'è stato un momento in cui ho rimpianto squadre un po' più proletarie, però magari è perché ci capisco poco. Coach? No, io credo che... Non ci capisci poco, Pietro. Io credo che bisogna fare in modo che ci siano degli equilibri. Ci sono dei giocatori che hanno caratteristiche che vanno esaltate in dove loro sono capaci di giocare, e altri giocatori che possono fare cose diverse. Cioè, noi non possiamo non avere Belinelli che sia un punto di riferimento, perché è uno dei giocatori che anche in America è un giocatore importante. Quando entra, a lui gli viene chiesto di fare dei punti, non gli viene chiesto di fare delle passeggiate. Perciò gioca nella squadra campione del mondo, quest'anno è uscita dalla squadra che ha vinto il titolo mondiale, cioè ha vinto l'NBA. Perciò Belinelli, Gallinari è un super giocatore, ma un altro giocatore che deve trovare anche per lui i suoi equilibri. Cioè, non basta avere dei buoni giocatori, bisogna fare in modo che ci sia un equilibrio fra di loro. Questa squadra non l'ha, è una squadra che certo. Tutti non giocano. Ha gerarchie, coach, non ha gerarchie. No, questo e tutti giocano lì, capita il periodo di lui, poi il periodo di quell'altro. No, ci deve essere qualcosa che deve chiamare Belinelli all'appuntamento o Gallinari, in conseguenza gli altri chiuderanno le porte a Belinelli o Gallinari per non fargli far canestro e saranno più liberi i compagni per giocare. Il tuo quintetto base della nazionale, ammesso che si possa parlare di quintetto base, è ovvio che nel basket moderno e forse anche in quello antico poi la partita la si vince in 10 o in 12, quindi non in 5. Certo. Ma qual è il quintetto di questa squadra? Beh, questa squadra secondo me metterei Oaco e Cenciarini, naturalmente playmaker, Belinelli, Bargnani o Cusin, perché il pivot non puoi toglierlo, poi perché non puoi giocare senza un lungo. Ti accorgi che gli altri hanno forza per giocare. Poi dopo, secondo ai Gentile, che può giocare con un altro giocatore, non è un problema di quintetto, è un problema che quando va una squadra in campo deve sapere che cosa vuole. L'impressione è che tutto viene così, cioè andiamo in attacco, certo, facciamo coach, movimenti da una parte all'altra, un inizio di pick and roll, poi cambiamo lato, poi pick and roll, ma chi? Perché non deve tirare, non deve essere lui il primo fautore dell'attacco, il secondo, il terzo, e secondo le azioni cerchiamo di andare a aprire quella porta. Se gli altri, bravo, si mettono in due per chiudergliela, vuol dire che ci sarà uno più libero, no? Perfetto, coach, io voglio farti ancora una domanda dopo il traffico, sì, forse un po' più tecnica, perché a me ieri Pianigiani non è piaciuto, nel senso che perché seguire l'Islanda che ha un quintetto di guardie tutti alti 1,95 m, e noi siamo andati dietro all'Islanda invece di giocare sulla potenza che potevamo avere. Traffico e poi sentiamo la risposta di Alberto Bucci. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Tutti convocati. Allora, ad Alberto Bucci ho fatto una domanda antica come i cestini delle pesche di Naismith. Ok, bisogna inseguire gli avversari oppure farsi inseguire, coach? No, dobbiamo essere noi a fare. Siamo partiti già dicendo che è una squadra che deve avere esperienza, che non ha giocatori che sono abituati a giocare. Ha giocatori che sono abituati. Bellinelli ha vinto un titolo NBA. Gallinari gioca in NBA. Mm-hmm. Gentile ha fatto il finale scudetto. Le ha fatti Della Valle, le ha fatti Cenciarini, le ha fatti Polonara, le ha fatti Da Tomme, le hanno fatti tutti. Questa squadra deve giocare la sua pallacanestro, quella che sa esprimere. Poi gli altri, guardo, io ho sempre pensato che è importante per una squadra, e quando ho allenato io, per me la cosa più importante era: prima battiamo noi stessi, poi battiamo gli altri. Lo so non bene, è una maglia so bene, diversa so bene, che cambia l'emozione. Perché se so gioco bene contro la Spagna, giocherò benissimo, gioco l'Islanda, gioco male. Gioco contro delle maglie. Se sono più bravi, gli stringo la mano, se sono meno bravo, vinco io. Perché se no, se comincio a pensare, mi devo pensare, devo adeguare questo, fanno questo. Poi, tatticamente, preparerò qualcosa. Ma non mi preoccupo in maniera esasperata, certo, mentalmente, a pensare agli avversari che sono forti, che sono bravi, che fanno questo, che se lo fanno lo dimostrino. Io da là io difendo come so difendere, creo la mia mentalità, creo la mia difesa e creo i modi di giocare in attacco. Poi il resto lo dovranno fare gli altri, sono più bravi, ci battono e gli diamo la mano. Ma uscire dal campo dicendo ma potevamo giocare meglio, l'ho sentita dire troppe volte e non mi sta bene. Che califfo, Alberto. Grazie, grazie coach. Grazie, coach. Grazie a voi. Sei ottimista o pessimista? È ottimista. No, su questo europeo, sei ottimista o è ottimista? Sono ottimista perché è spero ottimista che questa giornata di oggi si guardino in faccia. Non devo fare tanti allenamenti, devono andare, bravo, a guardare lì. È l'ultima occasione, non c'è domani. Noi il mondo viviamo guardando la televisione e la moviola e pensiamo che torniamo indietro. Non si torna mai indietro. Ogni giornata è finita e c'è lunga domani. Voglio giocarmi la giornata il meglio possibile e tutto quello che ho lo voglio dare per quella giornata e per quel momento. Noi siamo abituati a criticare che il tempo è passato troppo veloce, che il futuro è troppo lontano, ma noi viviamo oggi, adesso e qui, e se impariamo a vivere oggi, adesso e qui, diamo il massimo di quello che abbiamo. Hic et nunc, come direbbe Petrucci. Bravo, cultura latina. Grazie coach. Il professor Gendola, grazie coach. Buon lavoro, in bocca al lupo. Che califfo Alberto Bucci. Beh, ma sai, tanto non è che lo scopriamo noi oggi, ma no, le aziende spesso chiamano i grandi coach per fare degli discorsi o delle esperienze interattive con i propri dipendenti. Non è un caso, cioè le cose che ha detto il coach valgono per una squadra di basket, ma valgono per ognuno di noi in qualsiasi giorno della propria vita. Come un riccio un sacco di anni fa, quando era la guida della Virtus e vinse lo scudetto a Milano con Bruno Monti e Van Berlakolf. Ricordo abbastanza bene. Davvero? Ero bambino piccolo, era 80, no? Ah, sì. 90. Sinudine, sì. 90? Era Dietor. Era Dietor. Perché mi ricordo una vittoria della Virtus in casa di Milano in gara 3, ma credo fosse Sinudine quando ero bambino, tipo nell'82, 83, qualcosa del genere. Approfondiamo, non fammi fare quello di merda. No, faccio io. Che sono... Federico da Siena, dove hanno vinto un sacco di scudetti. Ciao a tutti. Ciao. Io volevo intervenire sulla questione di Conte, della nazionale, in generale su come gli allenatori spesso vengono additati il giorno dopo le partite. Credo che l'Italia ieri abbia giocato una bellissima partita e che sia mancato solo tanti gol, che non è poco, però è anche vero che grandi bomber ultimamente italiani mi sembra se ne veda pochi. Comunque credo sia una questione di rispetto nei confronti di un allenatore il fatto che non è che un allenatore mette un giocatore perché lo stadio lo gradisce, l'allenatore viene pagato. Infatti sono d'accordo, e la stessa cosa si ricollega anche alle dichiarazioni di Mihajlovic recenti, che è stato criticato in discussione a cena ad Arcore. No, lui è l'allenatore e ha il diritto di lamentarsi quando i giocatori non rispondono per quello che guadagnano e per quello che lui ritiene. Non è una questione di metto Tizio perché è gradito a quello o metto Caio perché è gradito a quell'altro. Sono altrimenti d'accordo. Le formazioni si fanno con i sondaggi online sui siti delle società. Facciamo gli exit poll. Allora lascio a Pierluigi Pardo la risposta di un minuto. No, ma sono d'accordo, anche in 30 secondi sono d'accordissimo, anzi in 5 secondi sono d'accordissimo. Credo che esista una differenza fra amichevoli e partite ufficiali, quindi credo che ieri il problema è il cortocircuito, se è stato questo sicuramente. Ma a te piace il discorso del giochiamo a Palermo, convochiamo i giocatori del Palermo, giochiamo a Genova, convochiamo i giocatori del Sampdoria. Non mi piace, non mi piace, è una captatio benevolenza nei confronti di un certo tipo di pubblico che può portare biglietti, che può portare entusiasmo, che può portare un aiuto alla squadra. Poi Vasquez non è che sia nessuno, Vasquez è un giocatore, ha ragione l'ascoltatore di Palermo, di Siracusa, Vasquez è un buonissimo giocatore che avrà altre occasioni in nazionale, però è ovvio che ieri in una partita non chiusa l'allenatore sceglie quello che gli pare, e in quel momento era Eder. Ma perché dicono Eder? Adesso c'è sta moda di Eder, ma Eder è stato 20 anni che sta in Italia, abbiamo sempre chiamato Eder, adesso Eder. Sentito ieri Eder, pensa che c'è un ascoltatore che mi scrive: voi le chiamate nazionali ma sono rappresentative, Vasquez, Eder, Soriano non sono italiani, pensa che siamo a questo livello. GR va, meglio così. GR, poi torniamo. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiza, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24, con i suoi inviati, vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. Ogni venerdì, nei GR, in effetto giorno e in effetto notte. Il sabato mattina, nel reportage europeo. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Convocati. Tutti convocati a Expo Cibus Italia, vicino a me. Fratello di microfono Pierluigi Pardo. Yes. Il mio capo Giorgio De Luca mi scrive: fai due ascoltatori veloci, poi parliamo di Formula 1. Beh, ieri sono stato al Gran Premio, è stata un'esperienza bellissima. Prima volta. Poi ci facciamo raccontare da Pardo, che era bello, bellissimo. Vanno forte, eh? No, vanno velocissimi e vabbè, questo è abbastanza banale. Ho scoperto che vanno piuttosto veloci, sì. Incredibilmente, questi da Formula 1, cose che non ti aspetteresti mai. No, è stata bella, ma è con le tue entrate mi fai provare una macchina di Formula 1? Sì, ma se non la sfondi, io non ho mai provata. No, ma è stato bellissimo, ho vissuto la gara nella lounge di Mercedes, posso dirlo, di grandissima serenità, era pieno di personaggi, la dottoressa Chiabotto, il dottor Oldani, che però non cucinava ieri. Figa? No, dai, adesso è buono, ero fra l'altro mia moglie. quella è stata una bella esperienza, devo dire. Poi bello, un sacco di gente, chiaramente, nell'arrivare, nell'uscire, che... un sacco di tifosi, soprattutto ovviamente della Ferrari, che chiaramente è un orgoglio per tutti gli italiani, per ciò che rappresenta. È stata, devo dire, una bellissima giornata. Non un gran premio divertentissimo, da quello che mi sembra che possa poca dire. Poca roba, pochi sorpassi, eccetera. Una superiorità di Hamilton evidente, al di là, insomma, della polemica sul pneumatico, però. Tanto, insomma, l'anno prossimo Monza ce l'abbiamo ancora, poi bisogna cacciare i sordi. Ma credo che ieri, però, insomma, bisogna cacciare ci sia i sordi. Stato un chiarimento quantomeno politico. Poi è ovvio che il tema dei soldi è imprescindibile, però, insomma, perché Creston fa il suo mestiere. Creston fa il suo mestiere, però, insomma, credo che sia anche consapevole del fatto che ci sono dei luoghi dove viene fatta la storia dello sport, e parte della storia dello sport è Monza, per cui in Monza. No, poi i soldi vanno trovati, questa è evidente. Poi Pier, sai che anche in Germania, casa della Mercedes, eccetera, non hai soldi, tira una riga sul Gran Premio della Germania e vai a correrlo sull'Himalaya. Se hai i soldi, questo è evidente. C'era anche Giuseppe Davarese ieri a Monza. Buongiorno. Sì. ciao a tutti. Tanto un complimento a Pardo, perché radiofonicamente è bravissimo. Beh, anche televisivamente. No, in TV faccio schifo. Non guardo la televisione. Non guardi la televisione. Ma Tiki-Taka, ti ospiti stasera, Tiki-Taka. Io guardo solo Tiki-Taka invece. Ma non fa per male. Il resto posso anche venderla al miglior offerente, la TV. Mi serve solo per Tiki-Taka. Sì. Ma se dopo fai un overdose di Pardo non è più così bravo. Questo è vero, questo è quello che dice mia moglie. Che meraviglia! È quello che dice mia moglie. Che meraviglia! No, non è vero, in realtà abbiamo il problema contrario, che ci vediamo troppo poco. Vabbè, comunque, chiusa questa parentesi, prego, dottore. Allora, io volevo dire una cosa su Balotelli. Dopo tanti anni che se ne parla, non ho mai voluto chiamare per Balotelli. Un argomento nuovo. Sì, esatto, io direi di smetterla, perché noi pensiamo che Balotelli è inviso alla gente per quello che fa fuori campo, invece la gente non ne può più per quello che non fa in campo. Cioè, noi continuiamo ad aspettare Balotelli ogni anno e lui ogni anno tradisce questo. Cioè, Balotelli, secondo me, non ha voglia di allenarsi. Il campione invece è quello che, quando un avversario di fianco e l'avversario arriva a correre a 50 metri, poi mentalmente dice: io non ce la faccio più a correre dietro un pallone. Tu hai ragione. Il campione dice: tu hai ragione. Corre un metro ancora in più, gli porta via il pallone. Tu hai ragione. Hai ragione. Se fossi un allenatore, però, non mi ostinerei a pensare a Balotelli come un attaccante. Io lo metterei sulla fascia e all'imperditore gli direi: ogni volta che hai palla la dai a Balotelli, e tu, Balotelli, devi correre sulla fascia fino in fondo. O crossi, non è il suo mestiere. Giuseppe, io sono d'accordo con te. Io ho la sensazione che a lui non piaccia più giocare a pallone, però sulla fascia ognuno fa il suo mestiere. Sulla fascia, fra l'altro, è un lavoro dove sei molto sacrificato. Balotelli ha una cosa, secondo me, eccezionale, che è la forza del tiro, cioè la potenza del calcio. Per il resto è un giocatore tecnicamente discreto, secondo me, non eccezionale. Tra l'altro, tatticamente, forte fisicamente, abbastanza scarso tatticamente. Abbastanza, cioè, vuol dire che non, adesso siamo qui, siamo fra amici al bar, e quindi deve migliorare da quel punto di vista. Quello che lui ha di eccezionale è la forza del tiro e la potenza fisica. Questi due elementi sono clamorosi. Poi ha, dal punto di vista tattico, delle aree di miglioramento, ma come tanti altri, insomma. Mi ricordo il primo Adriano, quello fortissimo ai tempi di Firenze e poi dell'Inter, era un giocatore che aveva un calcio fortissimo. Ecco, mi ricordo un po' quello, che però giocava poco con... Non ha fatto una grande fine. Non ha fatto una grande fine, però ha fatto anche degli anni in cui era clamoroso, poi si è perso completamente. No, ma io tifo per... A parte, l'ho preso anche a Fantacalcio. L'ho preso. Pagato? No, non è così. Noi facciamo Fantacalcio dal 1992, poi ero a cena col professore Enrico Ruggeri l'altra sera, e quindi mi hanno telefonato per l'asta. Insomma, non è che l'ho preso proprio perché dovessi prenderlo a tutti i costi, però sono contento di averlo. Mi sono arrivate anche delle offerte. Qua mi hanno proposto Guarin e Brozovic. E io ho deciso che per ora Brozovic meglio. No, vabbè, però mi hanno proposto questi due per Balotelli. Forse mi tengo Balotelli. No, io ho fiducia. Cioè, ho fiducia nel fatto che, come dice Claudia Mendola, in ultra non può finire così, nel senso che la carriera di Balotelli non sarebbe veramente assurdo e illogico se finisse adesso. No, c'è una confluenza di interessi clamorosa perché lui possa migliorare, però la strada da fare è tantissima, sicuramente. Alberto da Treviso, poi c'è il traffico che piace. No, non c'è il traffico, c'è Leo Turrini dopo. Vabbè, il traffico ce lo fa lui. Che è come il traffico, certo. Cazzo che ci dice sulla tangenziale, sulla... È vero, Leo. C'è già... Guarda, io arrivo lentamente perché come Raikkonen parto dopo. Senti Turrini, ma ieri io ero lì e non ci siamo visti, questo è il dato politico che mi hai evitato, Turrini. No, allora adesso diciamo subito una cosa importante, che è una notizia anche per il parlare in romanesco di Pardo, che tutti dicono, ma Raikkonen come mai questa cosa via? Ve lo posso svelare io, stava guardando in streaming la replica di Tiki Taka. Il programma di Pardo sul volante si è distratto sul volante, nel display c'è tutto, Pardo fa questa cosa meravigliosa e purtroppo lì gli altri sono sfilati via tutti, e che cosa ci vogliamo fare? D'altronde per il traffico, no? Quindi è colpa di Pardo, cioè morale stai dicendo che è colpa di Pardo sulla pera Cormano, no? No, tu ci scherzi, ma sulla pera Cormano io ho fatto tardi perché era tutto bloccato. C'è una coda, tutti dicono è per via dell'Expo, no? È Raikkonen che sta rientrando. Dove da siamo Monza. Noi? Sta rientrando da Monza. Quindi, insomma, procede a singhiozzo, avete capito? Come state, Birboni? Bene, senti, io ti voglio bene, ti devo dire, ieri siamo già bellissimi, ho incontrato un sacco di tifosi, però No, volevo dirti che ieri c'erano veramente... le star, George Lucas, il papà di Star Wars, Matteo Renzi, no? Sergio Marchionne, Pardo dall'Imperio Televisivo, cioè ci eravate ritrovati tutti lì insieme, anche questo ha contribuito a mandare un po' in tilt Kimi al momento della partenza, non è abituato il a vedere Kimi. Senti, invece il motore di Rosberg, che gli è successo alla fine? Ma è dispiaciuto un po', A me nemmeno un po', invece, essendo Ferrari. Perché? Però... Ma non puoi gufare, dai. Io sono un cronista e ti dico, da cronista, che per i tifosi Ferrari si è rotta la Mercedes sbagliata. Perché guarda che in quel momento in cui si è vista una freccia d'argento finalmente spuntata, che rallentava parcheggiando ai bordi della strada... Chi non ha sognato che fosse quella del nero che si è fatto ma il tamarro più veloce del mondo, dai, lascialo stare, il tamarro più veloce del mondo. No, io tra l'altro avevo la speranza nell'effetto Rihanna, no? Perché uno che per amore di Rihanna ce l'hanno tutti. Si fa biondo, hai capito? Arriva, fa il burnout con la motocicletta all'ingresso. Cioè, ma ci poteva stare che avesse un attimo di distrazione. È un fenomeno, no, veramente. È bravo, non paragonato la Balotelli, al quale hanno ritirato la patente, come avrete già raccontato, per eccesso di velocità a Brescia. Ma non se n'era accorto, Leo, fa il bravo. Non si era accorto che c'era il limite, l'ha detto al vigile. Non lo sapevo. Dovrebbe essere sottoposto al ritiro della patente a tutti i Gran Premi perché è troppo forte. Onestamente è fortissimo. Sì. No, senti, la possibile squalifica, che ne pensi? Allora, lì c'è un discorso tecnico e un discorso politico. Il discorso tecnico è che effettivamente le gomme della Mercedes avevano una pressione diversa da quella consentita dai regolamenti. Però per amore di sportività, io che non perdo una puntata di Tiki Taka, ti dico che Hamilton mica ha vinto per quella leggerissima differenza di pressione della gomma. Il discorso però diventa politico in questo senso, che dopo il Gran Premio del Belgio, l'esplosione della ruota di Vettel, quello che era capitato a Rosberg al venerdì, era stato detto in primis dalla Mercedes che bisognava essere rigorosissimi in materia di sicurezza per tutelare l'incolumità dei piloti, e avevano implicitamente accusato la Ferrari di aver mandato allo sbaraglio il tedesco, no? Dopodiché sono loro che non sono in regola, ma siccome la Mercedes, qui lo dico perché so che gente me lo concede, si è comprata la Federazione Internazionale, non da non vincono per quello, ma tu vai a vedere dal 2013 il famoso test segreto con la macchina nuova, con le gomme Pirelli, 1000 km, operazione vietatissima, gli hanno dato un buffetto sulla guancia. ieri hanno detto sì, la pressione non è a posto, però forse le termo. Beh, ma anche i palloni di Tom Brady, la sai quella storia lì, no? Sì, sì, okay. I palloni di Tom Brady sgonfiati, squalificato, sì, poi un buffetto sulla guancia. Io sono d'accordo, l'ho detto prima, loro vincono perché hanno una macchina stellare, Hamilton è un certo, fenomeno. E ci hanno messo degli anni ad avere una macchina stellare. Però perché... se tu vai a vedere, insomma, nelle circostanze in cui la Mercedes non è proprio perfetta nel rispetto delle norme, a questi danno sempre una scappatoia. Guardate che se ne è accorto persino Marchionne, che non è che sia, diciamo così, particolarmente competente in materia di Formula 1, eh? Questo è abbastanza evidente. Detto questo, ragazzi, voi insieme formate una coppia, non so come ma Renzi dire. E Marchionne che si stavano dicendo ti prego, adesso me l'hai scatenato. No, la cosa devo dire drammatica, voi sapete che c'è tutta la vicenda Monza sì, Monza no, dal 2017 sì. In poi, no? E sabato il presidente della Lombardia, Maroni, il leghista, dopo aver incontrato Ecclestone, ha detto 99,9% Monza continuerà a vita, no? E tutti a dire questa roba. Poi è arrivato Renzi, che ha mostrato durante un caffè una slide, una delle sue famose slide, sempre al solito Ecclestone, e tutti hanno concluso che il Gran Premio d'Italia del Parco si farà vita naturale durante. Io vi faccio notare che è molto probabile che dal 2017 a Monza non si corra più, perché quando abbiamo questi che parlano sempre in politichese, si trovano di fronte uno come Ecclestone che non capisce il metodo italiano, l'approccio italiano a queste cose. Lui vuole 25 milioni di dollari all'anno, la stessa punto, cifra che gli danno punto. In Spagna, se no l'ha tolto sì. lo dicevo prima, no? L'ha tolta, sì, la Germania della Mercedes, Francia, no? Che tu la dici Francia, che è la padrona del sì, circus. Sì. La okay. Francia non ha più. Vabbè, 25 milioni, dai, Leo, su. È che sono, qui mettiamo in mezzo. Ma fai la colletta, no? No, ma io direi, facciamo quelle operazioni che ho letto per tutta l'estate essere il marchio di fabbrica della mia Inter, no? Cioè le cambiali. Si fa un prestito con l'obbligo di riscatto, oggi paghi uno, certo, fra certo. 20 mesi. Bisogna provare a fare così con questo, mandare ausilio e Fassone. Sperando non su un furgone guidato da Raikkonen, perché in questo caso non arriverebbero mai, e tentare di dire: ma se noi ce ne diamo due adesso e l'obbligo di riscatto fra 10 anni, hai capito? Ecco, queste belle operazioni. Però è stato, devo dire, un evento, perché ieri c'era tanta gente, quella folla colorata sotto il palco alla fine. Mi è dispiaciuto che qualcuno abbia fischiato Hamilton, che meriterebbe soltanto di essere applaudito. Siamo italiani. Però si è avuta proprio la percezione che c'è un desiderio popolare che questo evento, che fa parte della nostra cultura, rimanga a Monza. E quindi speriamo che tutti questi che si sono riempiti la bocca di promesse poi al momento di andare al portafoglio procedano. Questo direi. 86.000 persone, mi diceva stamattina il professor Terruzzi. Sì. 86.000 persone ieri. No, era un bel contorno, ti dico. Io bellissimo, bellissimo. Penso che, insomma, chi anche non è andato lì, ha visto la TV, insomma, si è reso conto che parliamo di un momento che appartiene al DNA nazionale. Ecco, anche quelli che non gliene frega nulla, come Pardo della Formula 1. Monza qualche cosa ti dica, ti dia. Non mi vergogno a dire, da antimilitarista, persona pacifista proprio, eccetera, che però è il momento delle frecce tricolori, mi ha emozionato. Frecce tricolori, l'inno nazionale, mi è piaciuto molto. Sì, mi sembra proprio che faccia parte di questi riti, di questa appartenenza, che è una cosa bella. No, ma guarda, io dico sempre che Monza per noi è quello che Wimbledon è per gli inglesi con il tennis, o la Parigi-Roubaix nel ciclismo per i francesi. Talvolta possono anche sembrare eventi anacronistici, no? Perché ad esempio la Roubaix che corrono sulle pietre, i ciottoli, però sono espressioni di una cultura, di un patrimonio collettivo. A me non interessa molto di Ecclestone, eccetera. Io vorrei, è come tutti i convocati, cioè voi ormai fate parte del patrimonio collettivo di questo paese. Cioè, ecco, per salvarci, parlo, spediteci 25 milioni di euro. Ecco, che abbiamo... la gente vi ascolta e dice: ma questi sono le voci dell'Italia più sana, hai capito? C'è poco da fare. Ti voglio bene. Pensa a quella vero sana, vabbè. Fate attenzione se state viaggiando sulla Salerno-Reggio Calabria, molta attenzione, perché si è elevata una colonna di fumo. E purtroppo è la Mercedes di Hamilton che si rompe solo quella stradale che gli danno così, no? Al Balotelli biondo della Formula 1, perché invece quella da Gran Premio è sempre perfetta e noi dobbiamo ingoiare questi magoni, questi rospi. Quindi rallentate anche sulla Salerno-Reggio Calabria. Beh, se soprattutto se era in viaggio con Rihanna. Okay. Beh sì, lì lasciamo stare su cosa pazzesco in quella piazzuola, perché dopo parlo su scatena. Facciamo così, facciamo così. Signorina Rianza. Ciao Leo Turrini. Ciao, ciao. A presto, ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. La signorina Rianna ha partecipato a un evento, c'era il cappello, c'era Adriano Panatta, un evento Laureus l'altra sera. Quando viene la Tiki Taka, la signorina Rianna? Non lo so, ho visto Hamilton e Rosberg, cioè, ho visto, non è che siamo andati al bar insieme, però insomma erano in questo evento l'altra sera e c'era appunto anche Capello, c'erano questi vari ambasciatori della Laureus, c'era Edwin Moses, no, a parte tutto insomma. Edwin Moses è veramente uno di quelli che lo vedi e dici che è un pezzo della storia. I nostri amici qua sono abbastanza Edwin Moses. Sai chi è Edwin Moses? Sì, adesso facendo risì con la testa, però insomma. E poi c'era Giacomo Agostini. Tanta gente, tanti grandissimi. C'era anche Alberto da Treviso. Alberto, buonasera, buongiorno Alberto, il signor Alberto, prego. Buongiorno, complimenti a voi per la trasmissione. Sei bravi, tutto bene, grazie. Tutto a posto. Treviso è una delle città più belle d'Italia, possiamo dirlo? Diciamo. Sì, è una città che è bellissima. Si sta comodi, bellissimo. Tipo a Roma, si sta comodi, a Roma, bellissimo. Io da bambino, le grandi città del Veneto erano Venezia, Vicenza, con grande rispetto, Verona, cioè Treviso è bellissimo. Treviso si parla poco di Treviso. Parliamo di Treviso. 10 minuti dedicati a Treviso. No, sto scherzando, prego Alberto. Però è bellissima davvero. Sì. No, volevo esprimere un pensiero sulla nazionale italiana. Avevo sentito all'inizio che c'era qualche perplessità un po' sul nostro attacco, sulla batteria dei nostri attaccanti. Io penso che sono potenzialmente tutti attaccanti che a fine campionato, nel campionato italiano, possono siglare 15-20 gol. Io penso che per la nostra nazionale, quando andrà ad affrontare le migliori nazionali europee, potenzialmente siamo da secondo posto, ma siccome noi siamo più forti con la Germania, alla fine arriviamo primi. Perché tutte le altre ottimismo così, ottimismo totale, l'ottimismo del nord-est. Qualitativamente io penso che non ci manchi nulla. Tutte le altre, quelle altre volte che siamo arrivati primi, o siamo arrivati all'inizio, alla fine bene. Sì, non siamo mai partiti con una squadra di questo è vero ed è tipico i supercampioni. Guardi, questo è vero. Gli ultimi europei avevamo Cassano e Balotelli che non eravamo favoriti, però no, però siamo arrivati là. Siamo arrivati là. Lo sapevamo prima, Cassano veniva da un problema al cuore, Balotelli era la solita incognita. No, io sono d'accordo con Alberto sul fatto che per l'amor di Dio, primo ci vogliono anche tanti altri fattori, no? Però tra il primo e il quarto posto noi ci siamo dentro, quindi oggi... Ma dipende, guarda, io ho un certo nichilismo sulle competizioni delle nazionali, nel senso che poi alla fine in qualche modo si ricollega anche al discorso che facevamo prima sul basket, cioè noi poi non è che la quantità di talento per forza in una competizione breve porti al risultato finale, è appunto la forza, l'equilibrio di una squadra. La nostra nazionale del 2006, sono d'accordo con Alberto, è certamente era una squadra piena di talento rispetto a quella di oggi, molto più forte, però è anche vero che questo standing, questa patente di fenomeni gliel'abbiamo data anche dopo, nel senso che non era favorita prima dell'inizio del mondiale, eravamo tutto meno che favoriti. Poi ovviamente dopo uno dice vabbè, ma c'avevi Pirlo, c'avevi Zaghi, c'avevi Del Piero, c'avevi Totti, c'avevi Buffon, tutti i campioni che abbiamo avuto in quella nazionale lì, oggi li veneriamo giustamente come una generazione pazzesca. Però ti dico sinceramente che che prima non era così. Quindi accolgo questa parte del ragionamento. Detto questo, se facciamo per esempio un piccolo paragone con l'attacco, fra l'attacco dell'Italia e quello dell'Argentina, che è sempre un giochino divertente, capisci che loro parliamo di due sport diversi, no? A casa di Bala, poi non è detto a casa Agüero, hanno ovviamente Messi, hanno ovviamente Higuain, hanno Lavezzi, cioè se ce ne dessero una a noi. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che probabilmente Italia e Argentina non è che perdiamo in partenza, cioè ce lo giochiamo. No, ce lo giochiamo. Allora abbiamo un minuto e mezzo e Paolo da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Una domanda per voi esperti. Visto che in Italia si tratta un po' male, eccetera, una proposta che potrebbe valere anche per altri sport, basket, pallavolo. Le serie inferiori, cioè B e Lega Pro, pochissimi stranieri, Lega Pro diciamo 0 e serie B 3, mettiamo uno per ruolo, con i giovani costretti a giocare con altri italiani più esperti, ok, in modo che possono giocare ragazzi di 20 anni in fianco a uomini magari verso fine carriera di 30-34, che gli possono insegnare il mestiere. Il talento sì, non si può mille, insegnare. Ci sono mille ricette. Io sono d'accordo sul fatto che bisogna giocare con quelli, cioè che campionato primavera, i campionati giovanili valgono fino a un certo punto e poi bisogna giocare con quelli sgamati. Bisogna giocare. Perché diventa completamente un'altra chiave dal punto di vista agonistico, insomma, rispetto, no, al mondo dello sport giovanile, che è uno sport che giustamente è un mondo diverso. Non mi ricordo chi l'altro giorno, forse Brocchi a Tiki Taka, o forse qualcun altro, no, forse Cairo. Che ci raccontava proprio a tutti i convocati che insomma, diciamo, l'input che lui dà agli allenatori delle giovanili è certamente provare a vincere il campionato, vincere lo scudetto anche a livello primavera fa ovviamente piacere, ma la cosa che conta di più è la valorizzazione dei talenti. Sono due sport diversi. Lo sport giovanile e una squadra giovanile nasce con la funzione di creare quanti più talenti possibile. Lo sport invece di categoria, di qualsiasi categoria, Lega Pro, dilettanti, fino alla Serie A, la Champions League, solo con l'ossessione del risultato. Quindi sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Vi salutiamo. Domani torno. Poi vado a fare Juve Boca Juniors alla UNESCO Cup. Vecchie glorie. Vieni, cioè, andiamo a Torino tutti insieme. In allegria. Allora vengo. C'è anche Abbondanzieri, Martin Palermo. Eccezionale, incredibile. Tanto noi torniamo domani da Expo Cibus Italia. Vi aspettiamo. Grazie per Luigi Pardo. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Monica! A presto, oh, c'è presidente. Michele che c'ha un vestito più colorato, eh! Ha ragione, sta arrivando l'estate, nel prossimo campionato, alla fine di agosto. E allora cantiamo, l'estate sta finendo!